Login. Chiavi d'accesso al 2018. Di Simone Spezia. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati e buongiorno. Questa è Login, chiavi d'accesso al 2018, una trasmissione nella quale cerchiamo di raccontarvi qualcosa su quello che può avvenire nel corso di quest'anno. Non tanto sui singoli eventi, quanto più su quelle che possono essere delle tendenze generali. Poi magari alla fine dell'anno, a ridosso del 2019, vedremo se ci abbiamo azzeccato oppure no. Non sono passati nemmeno 10 anni. Il 31 ottobre del 2008 veniva pubblicato un documento nella forma di un vero e proprio paper universitario, ma non firmato da un accademico e postato in un forum, nel quale si ipotizzava uno schema per quello che potremmo definire molto semplicemente e semplicisticamente un nuovo modello di pagamenti, partendo da un'idea già presente, ossia quella di realizzare un sistema di transazioni che non avesse bisogno di alcuna istituzione finanziaria come una banca in mezzo. Si propone la soluzione tecnologica perché questo schema potesse essere realizzato in sicurezza. Il documento portava la firma di Satoshi Nakamoto, personaggio fantomatico del quale la vera identità non è mai stata scoperta. Si è pensato per un momento che potesse essere un imprenditore australiano, Craig Wright, il quale successivamente disse che effettivamente era lui, ma le prove che ha portato non sono decisive. Altri sono convinti che sia un team di programmatori. Qualcuno si è addirittura spinto a dire che dietro questo pseudonimo si nasconda Elon Musk, il fondatore della Tesla, che però ha smentito. Chiunque si nasconda dietro questo nome, non è questa la cosa importante. Ha avviato quella che potrebbe essere una rivoluzione sociale e politica prima che una rivoluzione valutaria. Chiaro, già solo il fatto che possa non esserci più un'autorità centrale a battere moneta dopo 3 millenni che andiamo avanti in questo modo è decisamente significativo. Avete capito, stiamo parlando di Bitcoin. Il punto però è la creazione di una tecnologia, la blockchain, che potrebbe cambiare il modo con il quale firmiamo contratti e prendiamo accordi e, perché no, anche quello con il quale votiamo e prendiamo decisioni collettive. E poi c'è un aspetto finanziario, ragazzi, che preoccupa qualcuno che ci vede una bolla in arrivo. Per darvi un'idea, Bitcoin valeva $750 all'inizio di quest'anno, ne vale oltre 16.000 nel momento nel quale registriamo questa puntata. Ethereum, altra criptovaluta, valeva 6,92 euro, ora ne vale oltre 600. Infine ci sono i regolatori che devono decidere se muoversi, ma possono veramente farlo e come possono farlo? Questo è Login, io sono Simone Spezia e ci sentiamo dopo il traffico. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta Login, chiavi d'accesso al 2018. Bitcoin is the most subversive technology on the planet. This is a system that is growing around the entire world. The government, no matter how many guns they draw, cannot change a mathematical problem. They can point their guns at 2+2, but it's always going to equal 4. Welcome to the financial renaissance. Ma insomma, è una bolla o non è una bolla? È quello che si stanno chiedendo tutti alla fin fine. Chi l'ha comprati, chi non l'ha comprati? Facciamo una full disclosure, come si dice. Chi vi parla è in possesso di criptovalute, non quantità rilevanti, e sinceramente non pensiamo di essere in grado, con una trasmissione nella quale parliamo di Bitcoin, Ethereum e via dicendo, di poter modificare il mercato di queste valute. Non certo una trasmissione su Radio 24, siamo bravi, siamo forti, siamo ben ascoltati in Italia, però insomma non così forti. E comunque sono quantità risibili, tranquilli. Per darvi un'idea della dimensione, Bitcoin valeva $750 all'inizio di quest'anno, ne vale oltre 16.000 nel momento nel quale registriamo questa puntata. Ethereum, altra criptovaluta a quanto pare molto promettente per tutta una serie di altri aspetti, valeva 6,92 euro, ora ne vale oltre 600. E ci sono i regolatori che si stanno chiedendo: beh, dobbiamo intervenire oppure no? Cristian Catalini insegna all'MIT di Boston ed è anche un esperto, una persona che svolge ricerca su questi temi. Catalini, grazie per essere con noi e buona giornata, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei. Ci dice innanzitutto questo: è la vera rivoluzione. Quando abbiamo parlato prima nell'introduzione di una rivoluzione anche sociale e politica, almeno potenzialmente, è effettivamente così? È importante ricordarsi che la maggior parte delle rivoluzioni richiedono molti, molti anni prima di completarsi, e la maggior parte delle rivoluzioni falliscono. Bitcoin di sicuro è parte di una rivoluzione sia tecnologica che sociale, e come tale il verdetto è ancora molto aperto. Non sappiamo come evolverà, ma di sicuro la tecnologia e le idee che sono nate intorno a Bitcoin sono qui per restare. E questo è forse il punto fondamentale, no? Alla fine le vere rivoluzioni sono importanti proprio per quello, per il seme che lasciano, e non solo per l'effetto che hanno nell'immediato, ma proprio per il seme che lasciano. In studio con noi anche Carlo Piana, che è un avvocato, fondatore dello studio Array, che è uno studio che si occupa proprio di tecnologie informatiche, esclusivamente di tecnologie informatiche, che ha scritto tra l'altro su questo tema, e ve lo segnalo, un bel pezzo che trovate sul nostro blog collettivo del Sole 24 Ore, dedicato ai temi dell'economia, che è Econopoli, curato da Alberto Annichiarico, perché è un post anche molto esplicativo. Allora, Carlo Piana, l'impressione che si è fatto lei è che partiamo dal punto di vista finanziario, che sia una bolla oppure no? E io l'ho definita più un soufflé, cioè qualcosa che può scoppiare ma può anche rimanere, per cui dipende da tante cose, anche da quello che poi il legislatore mondiale, europeo, italiano faranno. Proprio su questo punto, il legislatore che possibilità di intervento ha? I segnali che abbiamo e che stiamo cogliendo quali sono, e che possibilità, e questa è una domanda che girerò anche a Cristian Catalini, che possibilità ci sono effettive di intervento dal punto di vista tecnico e tecnologico su una struttura come quella di blockchain? Allora, io ho un po' il terrore che il legislatore entri a gamba tesa senza sapere cosa effettivamente fa, con interventi che ha già fatto in altri campi simili, che però hanno creato più problemi di quanti ne abbia risolti. Per cui senza capire la tecnologia è un po' impossibile intervenire. Non è che il Bitcoin non abbia aspetti problematici, si dice i pagamenti in nero, la criminalità organizzata, eccetera. Però è anche vero che intervenire su una criptovaluta che non è controllata da nessuno, che non ha intermediari, vuol dire anche intervenire sugli elementi tecnici di internet, e quindi un ennesimo intervento tecnologico sui provider, su come noi accediamo, obblighi magari di disclosure, obblighi di comunicazione, appesantimenti, burocrazie e tutto quanto già abbiamo visto con web tax, con il peer-to-peer, con la lotta alla pirateria multimediale e informatica. Per cui le possibilità per il legislatore di fare male ci sono, e secondo un noto principio, se ci sono vuol dire che accadranno. Sono pessimista, però è così. Cristian Catalini, prima ancora di venire a questo, perché forse ci conviene anche tornare un po' a bomba e tornare a spiegare ai nostri ascoltatori qual è questa rivoluzione che Bitcoin e la tecnologia che c'è sotto Bitcoin promettono. Com'è possibile, se riusciamo a spiegarlo nella maniera più semplice possibile, com'è possibile ottenere una validazione delle transazioni che non passi da un ente centrale? Assolutamente. Nel pezzo che abbiamo scritto di ricerca proprio di Economic Theory sulla tecnologia, parliamo di due costi fondamentali che la tecnologia cambierà nei prossimi 5-10 anni. Il primo è quello che chiamiamo il costo di verificazione, verification cost, quindi l'abilità di controllare in un ledger, in una specie di acconto di bilancio, che un certo acconto, un certo trasferimento, un certo pezzo di proprietà intellettuale è stato spostato da un attore a un altro, da A a B. Il secondo è cost of networking, cioè l'idea di avere una piattaforma digitale che può operare senza assegnare market power, e quindi controllo, a un singolo intermediario. La cosa affascinante della tecnologia è che se guardiamo a tutte le piattaforme digitali che usiamo in questi giorni, da Facebook a Google, a causa dei network effect, quindi il valore di una rete aumenta quando ci sono più persone su quella stessa rete, tutte queste piattaforme sono estremamente concentrate e hanno un livello molto alto di market power, di controllo sul mercato, di controllo sui dati, di controllo sulla privacy. Bitcoin è il primo esempio di una tecnologia che crea una piattaforma digitale senza assegnare controllo di mercato e controllo sui dati a nessuno. È una rete puramente peer-to-peer e quindi questo concetto di prendere un mercato che può essere anche concentrato o non competitivo e trasformare il mercato fondamentalmente molto più aperto, innovativo e competitivo è proprio il cuore di Bitcoin e di blockchain. Dal verticale all'orizzontale, mi sembra di poter dire, Catalini, no? Abbiamo avuto tante promesse sotto questo aspetto dagli stessi social network, cioè abbiamo avuto l'idea e la promessa che potessero diventare qualcosa appunto di veramente orizzontale, quantomeno in termini di comunicazione. Io mi riferisco al mio specifico ambito di lavoro, che è quello giornalistico. In realtà qua siamo di fronte a qualcosa che appunto rende tutto orizzontale, o no? O è qualcosa di diverso? Nel corso della storia, secondo me, abbiamo visto varie ondate di decentralizzazione, cioè di forze che hanno comunque preso mercati che erano estremamente concentrati e li hanno spinti nella direzione di increased competition, di più competizione. Internet nella sua prima fase assolutamente aveva questa proprietà di prendere mercati concentrati o comunque molto lenti, in cui abbiamo dei monopolisti o comunque degli attori che non innovavano, e trasformarli in mercati estremamente innovativi. Dopo però c'è stata una forza di riconcentrazione, per cui molti dei servizi che usiamo oggi sono estremamente concentrati, un po' come i vecchi monopolisti che avevamo prima dell'inizio di questa fase. Bitcoin e blockchain promettono una nuova ondata di decentralizzazione, di accesso molto più aperto, ma se la storia ci insegna qualcosa, probabilmente poi ci sarà un nuovo vettore di ricentralizzazione nel futuro, per cui vedremo, secondo me, una serie di nuovi servizi, ma la domanda appunto di quanto sarà orizzontale, quanto sarà peer-to-peer e aperta, è una domanda veramente empirica, quindi dovremo aspettare e vedere. Carlo Piana concorda, immagino. Assolutamente. From craze to crash. The value of the virtual currency Bitcoin has plunged. Anybody with experience just made a ton of money. Anybody who was silly about their Bitcoins just lost a ton of money. Depending on who you speak to, the issuance of our guidance was either the best thing that ever happened to Bitcoin or the worst thing. Politically, I'm not a very big fan of either the banks or Federal Reserve, and Bitcoin allows me to get around that. At least 24 companies have been subpoenaed by New York's Department of Financial Services. Regulations cannot keep pace with the pace of innovation. Explaining Bitcoin to a bank feels like explaining Amazon.com to Barnes & Noble. Bitcoin currently is the largest social economic experiment ever conducted in the history of the world. I see the democratization of technology as being a really positive thing. The pressure to not screw up just gets bigger and bigger. You can basically put a bank in your pocket. That's pretty amazing. Una banca nella nostra tasca, perché il concetto è appunto esattamente questo. In realtà, come abbiamo in parte raccontato anche qua su Radio 24, forse non abbastanza spesso, le stesse banche si stanno attrezzando e stanno iniziando ad utilizzare blockchain per delle loro applicazioni. Tutte le istituzioni finanziarie, lo studio che sta avanzando da questo punto di vista anche da parte delle stesse banche centrali è molto forte, come era normale che fosse, perché si parla effettivamente di moneta. Vedremo come evolverà quest'anno. Quello che abbiamo voluto suggerire è che questo 2018 possa essere una delle parole chiave di questo 2018, possa essere Bitcoin o possa essere più in generale criptovaluta. Ringrazio Carlo Piana dello studio legale Array, saluto anche e ringrazio Christian Catalini, che insegna all'MIT di Boston, per essere stati con noi e per averci accompagnato per questa puntata di Login. Grazie anche ancora a Laura Faggini in assistenza in redazione, Paolo Corleoni in regia. Una buona giornata da Simone Spezia.